Linee d'ombra di Matteo Caccia. Mi salvò il mio lavoro, che mi obbligava ad essere presente a me stessa e a vedere dolori sempre più grandi e senza speranza, e l'amore semplice di un ragazzo di Genova. Storie interrotte e altre che vivono solo nella nostra testa, in una puntata che si intitola Tutto su mia madre. Diciassette anni fa ho fatto lo stesso tragitto, ma all'inverso, da Barcellona a Madrid. Anche allora scappavo, però non ero sola. Avevo Esteban dentro di me. Allora fuggivo da suo padre e ora vado alla sua ricerca. È famoso il titolo del film, che ormai è diventato quasi un modo di dire Tutto su mia madre, ma è molto famoso anche questa canzone, anche questo brano che Pedro Almodovar ha utilizzato per quel film, che è un film ormai del 1999, ha più di 21 anni, ma è sempre un film bellissimo da vedere, appunto Tutto su mia madre. Abbiamo chiamato così anche la puntata di oggi di Linee d'ombra, perché raccontiamo due storie che hanno a che fare con delle nascite, con delle mancate nascite, con delle madri, con delle nonne anche, che sono delle madri al quadrato di fatto, perché sono madri una volta e poi diventano madri in qualche modo del figlio delle proprie figlie o dei propri figli. Tecnicamente si chiama nonna, ma tant'è, visto che oggi si intitola Tutto su mia madre la puntata, ci piace immaginare che una nonna sia una madre al quadrato. Vi racconteremo storie di questo tipo in questa puntata di Linee d'ombra. Noi vi ringraziamo per tutti i diari che ci state mandando, per i diari della quarantena che inviate a lineedombra@radio24.it. Stiamo pensando di farci qualcosa, stiamo pensando di fare diventare una pubblicazione, probabilmente stiamo immaginando di farli diventare un piccolo gruppetto di storie da poter ascoltare separatamente rispetto a tutto il resto, rispetto appunto alla puntata in sé, che ovviamente potete continuare ad ascoltare in podcast sulla nostra app o ovunque voi scarichiate i vostri podcast. Vi dicevo, la prima storia è proprio la storia di una giovane donna, un'infermiera che purtroppo non può essere parte del programma oggi perché ha, come immaginiamo e come sappiamo, altro a cui pensare in questo periodo, perché l'emergenza Covid è un'emergenza innanzitutto sanitaria e quindi lei è troppo impegnata con il suo lavoro in ospedale per trovare il tempo e il modo di darci retta. Quindi l'abbiamo ringraziata per la storia, vi racconteremo la sua storia, non sentiremo la sua voce, ma speriamo magari di farlo in un'altra occasione. La seconda storia invece è una storia che io ho sentito diversi anni fa in un programma americano, in cui questo giovanissimo ragazzo che si chiama Noah, che ha 15 anni, raccontava una storia legata alle sue madri. Lui è nato da due donne, due donne che si sono sposate e hanno avuto questo bambino che si chiama Noah, appunto, che adesso ha 15 anni, e racconta di quando lui ha una sera l'idea che le sue due madri stiano per separarsi e che quindi gli debbano dire caro mio, questa è la fine. Non succederà così, ovviamente, altrimenti non la racconteremo, altrimenti non sarebbe una storia, cioè sarebbe una storia ma sarebbe poco interessante. Tutto quanto avviene nella sua testa, e più tardi sentiremo che cosa significa, per quale motivo questo ragazzo ha voluto raccontare la storia di quel momento in cui credeva che le sue madri si sarebbero separate. Poi chiuderemo con la nostra storia seriale che sta andando verso la fine, una storia seriale che ha a che fare con il cibo, con la gola, quindi è davvero l'ultimo vizio capitale che vi raccontiamo anche attraverso una storia seriale, la storia di Anna Maria, che Mauro Pescio ha raccolto dalla sua viva voce e che sta andando verso la fine. È una storia piuttosto turbolenta di rapporto con se stessi e con l'idea di perfezione. Ma andiamo con ordine, andiamo con la prima storia di oggi, che è la storia di una giovane donna che un giorno si accorge di avere una sorpresa. Benvenuti a Linee d'ombra. Il 20 gennaio del 2000, insieme a 100 invitati, festeggiavo i miei 25 anni. Una laurea breve in tasca, un lavoro, bionda, occhi azzurri, 20 kg in meno di oggi. Soffiavo sulle candeline e chiudendo gli occhi desiderai di avere un figlio. Perché? Non lo so. Attenti a ciò che si desidera, dicono, perché potrebbe avverarsi. I mesi scorrevano veloci, si arrivò all'estate, un concorso pubblico vinto, un contratto a tempo indeterminato in tasca, si festeggiò il posto fisso. Sembra quasi una cosa di un'era geologica fa. Il mare, gli amici, l'anno 2000, 8 matrimoni, di cui 3 da testimone di nozze, gli europei di calcio in Francia, e poi comparve lui, 17 anni più grande di me, bello come il sole, affascinante, elegante, altero, uno stronzo, in sostanza. Per me, una specie di calamita. Io mi sentivo invincibile, bellissima, giovane, sfrontata, ma anche molto snob. Abbiamo fatto sesso ovunque, continuamente, era tutto perfetto. Era l'estate del 2000, il nuovo millennio. Era un'estate fantastica. A metà luglio, poco prima di vedere l'Aida, perché sono una melomane, venni portata in pronto soccorso per una colica renale. Ero a pezzi, ma pensavo solo ai soldi spesi per i biglietti. Avrei fatto qualunque cosa per rimettermi in piedi e riuscire ad andare. L'opera con il mio lui era un sogno che si avverava ad occhi aperti. Tutta colpa di Pretty Woman. Andai, ero dolorante, ma la tigna fu più forte. Quindi non diedi peso a nulla, mi imbottì di farmaci. Del resto è il mio mestiere, so come si fa. 10 giorni dopo, sempre intenta a vivermi un momento straordinario, al sapore di sale, stetti di nuovo male, di nuovo una colica renale fortissima. Va detto che l'ospedale, lavorandoci, per me ha sempre avuto un accesso privilegiato. Flebo, esami, e poi la collega del pronto soccorso che mi dice: «Beh, la risposta degli esami te la prendi tu, giusto?» E fu così. Ricordo solo che erano le 12 di un giorno successivo, e lì, su quel foglio, c'era scritto che ero incinta e che mi si invitava a procedere agli esami ematici per il dosaggio della beta HCG. I ricordi sono nitidi, precisi, taglienti e offuscati allo stesso tempo. Ricordo il sudore gelido scorrermi sulla schiena e il gesto della mano sul basso ventre. Com'era stato possibile? Che domanda idiota per una donna di scienza che prese 24 o 26, non ricordo, all'esame di anatomia. E all'improvviso pensai a che cosa avevo desiderato 7 mesi prima. Fu come essere seduti su una sedia elettrica. Fu un viaggio all'inferno che feci completamente da sola, per scelta. Non lo dissi neanche a mia sorella. Per 48 ore non pensai ad altro. Il bel principe, di fronte all'ecografia, mi disse che lui aveva già 2 figlie, che non ne voleva sapere nulla e che erano solo affari miei. Per quale motivo decisi di abortire? I farmaci presi in quantità non opportuna e qualcosa dentro che diceva che era la scelta da fare, forse è stato quello. Bombe di antibiotici, antidolorifici. Non puoi che non pensare ad ogni malformazione che hai letto sui libri dell'università. Quindi presi la mia decisione. Avevo già letto Lettera ad un bambino mai nato di Oriana Fallaci e per un istante sembrava tutto così surreale. Sapevo che cosa fare, dove andare, quali erano le procedure. È il mio lavoro, era tutto chiaro. Andai in un ospedale diverso dal mio, lì ci lavorava anche mia madre. Ha visto e fatto nascere bambini per oltre 30 anni. L'idea di deludere lei e mio padre era qualcosa di impensabile per me. Who could tell the story better about the things that I went through? Some were great, but most were terrifying and so spooky. Possibility to leave today. trouble everything too soon. Not where I want to be is, where I want to be is. Under the sea is where I'll be. No talking about the rain no more. I wonder what thunder will. Presi 2 giorni di ferie, fui ricoverata in una stanza con altre 2 donne insieme ai loro mariti, 2 splendide gravidanze a termine, pronte, con fiocchi, palloncini e regali. Una gentilezza riservata a poche. Era una cliente speciale, a quanto pare. Il dolore fu prima fisico, poi arrivò l'altro dolore, quello psicologico. Tornai subito al lavoro, ma ero come un fantasma. Misi una maschera, nessuno si accorse di nulla. Iniziai a spendere e anche a bere, e alcune serate in modo decisamente eccessivo. Volevo punirmi. Ricordo che bruciai qualcosa come 12.000 euro in un paio di mesi, o 12 milioni di lire, non ricordo più la moneta di allora. Bevevo ogni volta fino a stordirmi, perché solo allora, per qualche istante, il dolore non riaffiorava. Mi abbandonava dandomi tregua. Mi salvò il mio lavoro, che mi obbligava ad essere presente a me stessa e a vedere dolori sempre più grandi e senza speranza rispetto al mio. E mi salvò l'amore semplice di un ragazzo di Genova, che raccolse le macerie di ciò che rimaneva di me. Non mi ha mai chiesto che cosa avessi, ma la lacerazione, lo strappo che avevo dentro era paragonabile solo ad un vuoto infinito, un big hole, un grande buco nero. Non c'è un lieto fine a questa storia. Alla fine non ho avuto più figli, non posso averne. Mi è venuto un tumore al collo dell'utero, 2 conizzazioni mi hanno reso, come mi è stato detto, un contenitore vuoto. I primi anni dicevo a me stessa che ero giovane, che il grande amore sarebbe arrivato e anche altri figli, che lui o lei non l'avrei mai dimenticato, ma ci sarebbe stato. Un dopo, insomma. No, quel dopo non c'è più stato. Sulla soglia delle nozze, molti anni dopo, il mio futuro marito mise incinta un'altra, ma stavolta un po' più grande. Canalizzai l'attrazione per il bere come anestetico al dolore in un corso da sommelier. 3 livelli ice in un anno, insomma bere per dimenticare, ma stavolta con consapevolezza. Quello strappo, quel vuoto sono diventati una cicatrice che porto sempre con me, un tatuaggio invisibile. Ho chiesto perdono anche a Dio. Dopo diversi anni sono andata a confessarmi. Ora provo solo a perdonare me stessa, provo a non punirmi più, giudicandomi con ferocia e durezza inaudita. Il 20 gennaio di 20 anni fa, ed ora siamo nel 2020. È l'anno giusto per smettere di vergognarsi. È l'anno giusto per farsi amare senza sentirsi più spezzata e non degna. In barca a vela, con il vento caldo e il sole che brucia, faccio un respiro profondo, mi tuffo e scopro che c'è sempre un motivo per tornare a galla. Un detto africano dice che ogni donna è madre anche se non ha figli, purché si prenda cura di qualcuno. La cura è il mio lavoro e in fondo sono madre ogni volta che indosso quel camice bianco e maneggio con cura il dolore di un altro essere umano. So che è deciso già. Domani che hanno fame di andar via. C'è così poco intorno a te che lo rivuoi. E non è speciale mai per te. E non sa di niente ma di te. Tu che questo figlio non lo vuoi. E io non so. Per ogni taglio che hai sulle tue mani. noi vogliamo ringraziare moltissimo Silvia per averci mandato questa storia. Silvia purtroppo è appunto un'infermiera ed è in piena emergenza legata al Covid in questo momento, quindi ci ha fatto raccontare questa storia, però non ha trovato il tempo, il modo e probabilmente nemmeno l'umore per intervenire e parlare di un'altra storia triste oltre a quella che sta vivendo in questo momento sul suo lavoro. Noi però la ringraziamo per quello che fa e per la storia che ci ha mandato. Visto che questa puntata si intitola Tutto su mia madre, noi chiudiamo questa prima parte di Linee d'Ombra con una storia che arriva dalla vostra quarantena, no? un diario della quarantena. Un diario della quarantena che ha a che fare non con madri e figli, ma con madri, figli e nonne. Quindi è una storia di nonne e di nipoti. C'è una nonna che è in una casa, il nipote che è in un'altra, e questa nonna di fatto scrive al nipote. Marzo 2020, pandemia, stiamo in casa. Anche io, come tutti, resto in casa. Sono una signora anziana, anche in tempi normali non esco molto, se non per fare la spesa o fare due passi sotto casa. La cosa quindi mi turba solo perché sono costretta a rimanere rinchiusa. Per far passare il tempo, in modo costruttivo intendo, ho incominciato anzitempo le pulizie di Pasqua, lavando tutto ed insistendo sui punti più nascosti. Tiro fuori tutto da armadietti e scaffali, passo il disinfettante che mi è rimasto nell'armadietto, passo e ripasso, lavo tende, cuscini, copri divano. Le pulizie vanno bene, ma al di là di sentire odore di pulito, domani ricomincerò di nuovo. Per lasciare una traccia di questo periodo, voglio fare qualcosa che rimanga. Quindi tiro fuori la mia cesta dei lavori e posso scegliere, infilare perline per farne orecchini e braccialetti, schiacciare le capsule del caffè per farne piccoli bijou, lavorare all'uncinetto. Ho sempre avuto una passione e una certa manualità per tutte queste cose, che facevo poi regalavo ad un'associazione benefica per ricavarne qualcosa, ma da tempo avevo messo tutto da parte. Alla fine, cerca e ricerca su YouTube, ho deciso di fare dei puntaspilli a forma di fiore da allacciare al polso. Sono deliziosi. Mi sono piaciute anche delle presine da fare ad intarsi o per utilizzare ritagli di stoffa rimasti da qualche abito. Richiedono parecchio tempo ed attenzione, quello che mi serve. Poi vengono molto carine, sempre. Le ore passano, ma il mio costante pensiero va al mio nipotino, vivace bimbo di 3 anni che mi chiama in video e mi dice sempre: «Nonna, quando vieni a prendermi per andare nella casetta piccola?» La casetta piccola è l'appartamento che ho acquistato appositamente sul lago di Garda, a pochi chilometri da casa di mio figlio, dove passo l'estate, andando sempre a prendere il mio piccolo. Lo ritiro all'asilo, lo porto a fare merenda e poi al parco giochi. Poi, nella casetta piccola, a giocare, a fare dolci e gelati. Ero già pronta per trasferirmi, poi, ecco, si è bloccato tutto. Mi manca tanto il chiacchierio di Mattia, il suo correre avanti e indietro, il suo volere questo o quello, i suoi capriccetti, i suoi dolci abbracci. La nonna verrebbe a prenderti volando, se fosse possibile, rispondo sempre, ma ora non si può. C'è un lupo molto cattivo fuori dalla porta che non mi lascia passare. E lui in video rimane deluso. Intanto mi guardo e riguardo le foto e i filmini che mia nuora mi invia costantemente. Vorrei entrare nel telefono per partecipare attivamente ai giochi con cui lo impegna, ma mi rimane solo l'angoscia per la voglia di quelle piccole manine che stringevano le mie. Spero che avvenga tutto molto presto. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare. E c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavorare. E ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Ma attenti al lupo, attenti al lupo. Con un gran rumore di cicale, dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita non ha che bene, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenti al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Si intitola Tutto su mia madre la puntata di oggi, anche se l'ultima storia dai diari della quarantena che vi abbiamo letto è in realtà una storia che potrebbe intitolarsi Tutto su mia nonna o Tutto sul mio nipote e viceversa, ma di fatto si parla di figli, di madri, di figlie e di nonne in questa puntata. E anche nella prossima storia ci sarà un giovanissimo ragazzo che racconta non di una madre ma di due madri, tra pochissimo dopo le borse in diretta. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato, quando hai scelto di cambiare le cose, quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Ecco, come vi dicevo prima delle borse, questa puntata Rigor di Logica, se fosse per la prossima storia che stiamo per raccontarvi, non dovrebbe intitolarsi Tutto su mia madre, ma Tutto sulle mie madri. Perché il protagonista è un ragazzino di 15 anni. Lui si chiama Noah, ha due madri. E in questo racconto che ha fatto dal vivo in un programma di storia americano che si chiama Snap Judgment, lui racconta di quella volta in cui ha creduto una cosa sulle madri che alla fine si è rivelato l'opposto. Quindi la storia interessante di questa storia è che è una storia che avviene tutta nella sua testa, ma la racconta in maniera magnifica. È davvero una linea di confine questa tra quello che succede e quello che poi in realtà non succede. Si intitola Le ultime miglia. State con noi. Quando le mie mamme litigano, fanno dei lunghi viaggi in macchina. Poi tornano indietro e io sento che la nostra macchina rimane ferma nel viottolo. Entrano e Robin va direttamente in camera da letto, molto arrabbiata. Maria invece a volte fa dei toast oppure prepara qualcosa da bere. Io mi siedo nella mia stanza e rimango tranquillo, in ascolto, come se fossi un'antenna. Le mie mamme guidano una macchina che è una Honda CRV, l'hanno comprata nuova di zecca, è un'auto semplice e molto molto pratica. È la nostra macchina. Sono stato tutt'uno con questa Honda CRV per così tanto tempo ormai che quasi non me lo ricordo. Quando ero piccolo, le mie mamme guidavano per chilometri in autostrada fino a quando non mi addormentavo. Questa macchina mi ha portato agli allenamenti di karate e alle recite scolastiche. Quest'auto mi ha portato alla prima parata del Gay Pride, dove ho saltato tra la folla, ballando come un matto. Questa è la macchina su cui imparerò a guidare. È la macchina di cui avrò memoria. La sera di martedì scorso, mia mamma Maria, a un certo punto, entra in casa con un sorriso strano. L'altra mamma, Robine, e io siamo seduti in salotto. Maria ci chiede se vogliamo fare un giro in macchina con lei. E allora saliamo tutti in auto, mentre i nostri cuori quasi tremano all'unisono. E mentre guidiamo, improvvisamente si fa un grande silenzio in macchina. E io, a quel punto, capisco tutto. Capisco che è finita. Lo sento. Sento che stanno per dirmi che la loro storia è finita. E io non immaginavo che sarebbe finita così. Non immaginavo affatto una fine, per dirla tutta, ma se volevano parlarmi di divorzio, che modo assurdo questo per farlo. Però mi siedo sul sedile posteriore, mi chiedo quando me lo diranno, mi chiedo come me lo diranno. E poi comincio a pensare a tutte le conseguenze, penso a come sarà il tempo che passerò diviso tra di loro. Mi chiedo cosa accadrà quando si vedranno loro due dopo. Io non voglio incontrare un'altra fidanzata. Non riesco ad immaginare altro se non quello che stiamo vivendo. Questa fine è impensabile. Mi fa male il cuore al pensiero dei nostri ultimi chilometri insieme, questi chilometri. E tra l'altro, chi la prenderà la macchina? Sul sedile posteriore penso a quanto siamo stati fortunati ad avere questa famiglia. I loro 20 anni di matrimonio, i miei 15 anni insieme a loro. Comincio a ricordare il nostro tempo insieme. Ricordo quando Maria se ne andò una notte senza dire dove andava. Ricordo quando Robin un giorno fece le valigie e Maria corse fuori per impedirle di partire. Ricordo quando sono andato da loro piangendo all'idea della loro separazione. Ricordo quando Robin una volta uscì singhiozzando di casa. Ricordo quando Maria sussurrava a Robin di fare silenzio e Robin al contrario urlava più forte. Io sento il mondo che sta per crollare. Non voglio che questa vita finisca. E poi finalmente Maria inizia a parlare. Io mi stringo le gambe, guardo fuori dal finestrino. Sono pronto. Nobody tells you where to go. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tick, tick, tick, tick. What if you did? What if you walk? What if you tried to get on, baby? Hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Tie another one to your back, baby. hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go. Maybe you did, maybe you won't, maybe you rock around the clock. Maybe I ride, maybe you won't, maybe I try to get on, baby. Hey, hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go. Maria dice che la nostra auto, la nostra Honda CRV, è a soli 10 km da raggiungere i 100.000 km sul cruscotto. Io a questo punto mi domando se faccia parte del discorso di divorzio o sia solo una sorta di distrazione da quello che mi deve dire. E questa cosa mi fa arrabbiare, perché dovrebbe dirmelo e basta. Lei invece mi dice che il motivo per cui abbiamo fatto questo giro in macchina è per poter essere tutti qui per raggiungere i 100.000 chilometri insieme, a lei, come si fa con le persone che contano nella nostra vita. Lentamente quindi io mi rendo conto che questo non è un giro in auto per separarsi, questo è un giro per rimanere insieme. Siamo in macchina e stiamo guidando in un martedì sera e stiamo percorrendo 99.987 chilometri sul cruscotto. Ci fermiamo per prendere degli anelli di cipolla fritta e del gelato e poi continuiamo a guidare. 99.993, ascoltiamo Stevie Nicks. 99.996, Elton John. Quando arriviamo a 99.999, ci teniamo per mano e facciamo esplodere Melissa Etheridge e cantiamo Lucky a squarciagola. Ci sono troppi motivi per cui le mie mamme si sono innamorate tra loro per potersi lasciare. Ci sono stati troppi momenti in cui siamo stati indistruttibili. E in questo momento siamo un'unica famiglia che costruisce la propria estate viaggiando insieme, che brucia i ponti alle sue spalle, che aggiunge chilometri su chilometri con un modo dolce di invecchiare insieme. E non ci fermiamo e continuiamo a guidare la nostra Honda CRV sotto la luna. I wanna see how lucky lucky can be, yeah. I don't wanna be sonic ride. Double down, split the aces to the races. I feel lucky tonight. Vi consiglio di andare a cercarvelo perché lui è davvero un piccolo fenomeno, questo ragazzino che racconta questa storia. Si intitola Noah Last Miles. Il titolo della storia, Noah è il suo nome, e il programma si chiama Snap Judgment. Se andate su YouTube probabilmente trovate il video in cui lui racconta questa storia. Non ci sono i sottotitoli, ma ha comunque un bel suono, e lui davvero ha una maniera di raccontare questa storia non storia sulle sue madri e su di sé, che è davvero molto molto intrigante. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare a Linee d'ombra. Linee d'ombra. Ormai lo sapete, tutti i giorni vi chiediamo di raccontarci i vostri diari della quarantena. L'abbiamo appena raccontato la storia di una nonna che è lontana dal nipote, che non vede l'ora di raggiungerlo sul lago di Garda nella sua piccola casa dove sta con il nipote quando lo va a prendere da scuola. Oltre a questo però stiamo collezionando, più per il futuro che non per adesso, delle piccole storie di rinascita, e le stiamo collezionando attraverso degli audio. Vi chiediamo di inviarci degli audio tramite Instagram o Facebook, quindi potete collegarvi al mio profilo Instagram personale, che è Matteo Caccia, e mandarmi un messaggio privato, oppure tramite il profilo Facebook, sempre il mio, oppure quello di Linee d'Ombra, e anche lì usarlo per mandarci un audio attraverso il messaggio privato. Sapete che tramite i messaggi diretti si possono mandare degli audio sia su Instagram sia su Facebook, sono brevi, durano un minuto, potete far stare la vostra storia in quel minuto oppure farla stare in più messaggi messi insieme. E che tipo di audio messaggi, che tipo di piccola storia vi chiediamo di raccontare? Una storia che abbia a che fare con un momento di rinascita dopo un periodo difficile, dopo una separazione, dopo un fallimento, dopo un lavoro che è andato storto. Arriva sempre il momento in cui finalmente a un certo punto guardiamo fuori dalla finestra o scendiamo in strada e diciamo: ah, è andata, sto di nuovo bene, sono di nuovo fuori, ho messo di nuovo fuori davvero la testa dal buco. Ecco, quelle piccole storie vi stiamo raccontando. Ve ne abbiamo raccontate diverse, la storia ad esempio di Valentina che cambia università e trova la sua strada. Vi abbiamo raccontato addirittura la storia di una tartaruga che esce dal letargo in primavera, e il protagonista, che si chiamava Nicola, ce la racconta. Se avete una piccola o grande storia di rinascita da raccontarci, ecco, mandatela con un audio, con un messaggio audio. Vogliamo sentire la vostra viva voce attraverso il mio profilo Instagram Matteo Caccia, o attraverso il mio profilo Facebook o il profilo Facebook di Linee d'Ombra, con un messaggio privato. La prossima storia è una storia molto molto particolare, che ci arriva da Perugia. Io soffro di una sindrome che si chiama disturbo bipolare, ne soffro all'incirca dal 2007. E il disturbo bipolare di base è una forma di depressione, però è una depressione particolare perché capita, secondo me, solo alle persone più forti, quelle che reagiscono alla malattia, che lottano contro la malattia e che per lottare si inventano delle fasi maniacali, che sono tutto il contrario della depressione, cioè perché sono delle fasi di autoesaltazione, di iperattività, anche di strane fissazioni, se vogliamo. Io, per dire, quando ero al top della mia maniacalità, della mia fase maniacale, stavo a una conferenza stampa nel 2007 a Radio Rai, perché frequentavo un master a Radio Rai. Presi la parola in un intervento che non era stato concordato con nessuno, con voce, credevo io allora, un po' da Nanni Moretti, dissi: posso fare un intervento? Questo master è tutta aria fritta! Che è, un film di Alberto Sordi? Eh? E poi mi rivolsi a Bracardi, che è il comico che faceva le pernacchie da Arbore e che è fratello anche di quello che è stato il pianista del Maurizio Costanzo Show, e gli chiesi: ma lei che Bracardi è? Il Bracardi che suona il piano da Costanzo o il Bracardi che fa le pernacchie da Arbore? E lui mi disse una frase che mi gelò il sangue, e gelò il sangue nelle vene anche a tutto il pubblico in sala. Disse: no, guardi, mio fratello è passato a miglior vita da un paio d'anni ormai. Insomma, feci questa figura di merda clamorosa che a raccontarla oggi fa anche un po' ridere. All'epoca non mi faceva ridere per niente, perché mi stavo scavando la fossa professionalmente parlando da solo. Mi ha danneggiato tanto sul lavoro a me questa malattia, questo disturbo. Però adesso sto vedendo la luce in fondo al tunnel, finalmente, da 5 anni a questa parte, da quando io e Laura aspettavamo il nostro primo figlio, attualmente unico figlio, Miro. perché il fatto di aspettarlo, il fatto di rendermi conto violentemente che stavo per diventare padre, mi ha fatto calare molto più quei piedi per terra. Mi ha detto: oh, ma scusa, ma tu non te lo puoi più permettere il lusso di avere queste oscillazioni pazzesche di umore, di considerazione di te, ci devi stare con la capoccia, insomma. E allora ho cominciato a curarmi meglio, a capire meglio me stesso, a farmi più domande, a darmi più risposte. Buona parte di questo lavoro l'ho fatto anche con la scrittura, riscoprendo il mio vecchio talento per la scrittura che era da un po' di anni sopito, e scrivendo un libro chiamato Miro e il suo colbacco. E sono soddisfatto di me, che è la cosa più importante, perché poi molto il problema secondo me nasce anche da una bassa autostima che avevo. Insomma, è una bella storia di rinascita secondo me, la mia, che potrebbe dare anche coraggio a tanta gente che soffre purtroppo di problemi simili. E mi sembra di stare sempre meglio, e prima o poi ne verrò completamente fuori, ne sono sicuro. Chiudiamo la nostra puntata come sempre con la nostra storia seriale, la storia di Anna Maria, che finalmente, dopo aver tentato di tutto per autodistruggersi, sta provando di tutto per tornare a vivere. Rimane sempre un po' di misunderstanding, nel senso che continuo a mangiare sempre poco. Mi rendo conto di questa cosa, cioè nel senso che mi rendo conto che mangio sempre poco, e mi sforzo letteralmente, cioè faccio in modo di avere quelle giuste proteine, quelle giuste quantità, quei giusti ingredienti nella tua quotidianità che ti servono per affrontare anche serenamente tutto il percorso difficile che stavo affrontando. Una volta fuori, il mio rapporto con il cibo ci ha impiegato un po' a prendere una direzione accettabile. Io non avevo mai avuto una grande attrazione per il cibo, mi era sempre stato piuttosto indifferente. Fin dall'infanzia ho sempre mangiato pochissimo, mi annoiavo a stare a tavola, a mangiare, avevo sempre tante altre cose per la testa, e la più grande lamentela di mia mamma dal pediatra era: Anna Maria non mangia mai. Ed era vero, aveva ragione lei. Non mi interessavano nemmeno i dolci, non mi interessavano le caramelle, non mi interessava la cioccolata. A scuola avevo i miei compagni che venivano in classe con le caramelle e se le scambiavano e se le dividevano, ed erano gelosi delle loro caramelle, ma io li guardavo e pensavo: ma tutto questo per delle caramelle? Poi, crescendo, avevo iniziato a far da mangiare per la mia famiglia, quindi, pur non amando il cibo, passandoci del tempo, mi era cresciuta una minima curiosità per la storia del cibo, la storia di chi cucinava da sempre. Mi piaceva la tavola preparata bene, mi piaceva sì la tavola perfetta, i piatti belli, le stoviglie diverse, ma non mi piaceva altro del cibo, proprio non mi interessava. In me non c'era traccia dell'idea del gusto, del piacere. però lo vedevo come una cosa, guarda che bello questo piatto, facciamo così, facevo magari delle cose molto buone, ma dopo, ok, va bene, basta, non mi interessava, non avevo l'emozione di mangiare, di sentire qualcosa di diverso, di emozionarmi in questo modo diverso, non lo trovavo efficiente ai fini della perfezione, non era una skill che mi interessava appunto avere. Ma sapendo che dovevo ricomporre il mio rapporto col cibo, ho deciso di ripartire da quel poco interesse che provavo. Provo ad avvicinarmi, ad interessarmi non attraverso il gusto, ma attraverso l'idea di scoprire qualcosa di piacevole. Comincio a guardare il broccolo con uno sguardo diverso, ammirandone la bellezza. Se per secoli i pittori più grandi hanno ritratto cesti di frutta e di verdura, vorrà dire che quelle forme comunicano molto di più di un buon sapore. Il passaggio successivo è quello di imparare ad assaggiare i piatti con il gusto di assaggiare, non soltanto per immettere nell'organismo il necessario apporto di sostanze nutritive. Imparo anche a bere. Fino a 40 anni non ho mai bevuto vino. Non riuscivo nemmeno a comprendere come si potesse trovare piacere in un bicchiere di vino. A me era indifferente. A casa c'erano le bottiglie di vino in casa e le si aprivano quando c'erano gli amici, nessun problema. Però non mi dà niente. Grazie ancora ad Anna Maria per continuare a raccontarci la sua storia, che potete ascoltare ovviamente in podcast, ovviamente in gruppo. Se invece avete voglia di mandarci una vostra storia, indirizzo sempre quello, lineedombra@radio24.it, dove potete mandarci sia la vostra storia di confine, la vostra storia che ha a che fare con un passaggio, con una linea, oppure potete mandarci il vostro diario della quarantena, lineedombra@radio24.it. ora noi diamo la linea al GR e torniamo ovviamente domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!